stesso delirio. Non ti serve capire la forza che mi spinge a cercare nel mondo chiare senza divina. Già si nasconde io.